Si tratta di una grande festa annuale, questa è la terza edizione, diciamo così, in cui festeggiamo tutto quello che facciamo, diciamo. Cos'è che facciamo? Cerchiamo di offrire un'alternativa al sistema economico dominante, cerchiamo di far capire a tutti che fare è un atto molto profondamente politico e voglio farlo un po' divertendoci. Ci siamo uniti a Camilla quest'anno perché era un po' il passo naturale nell'evoluzione di questa festa, perché noi rappresentiamo, diciamo che siamo un po' sorelle di anima, siamo molto legate uno all'altro, Camilla si rifornisce di campi aperti, molti produttori e coproduttori, consumatori di campi aperti sono anche soci di Camilla, e l'idea è di creare filiere e scelte alternative al sistema dominante agroindustriale che fanno sì che possiamo difendere il nostro diritto alla sovranità alimentare, cioè la scelta di quello che mangiamo, della qualità di quello che mangiamo, di come è stato prodotto quello che mangiamo e di tutta la filiera dietro a quello che mangiamo. Domenica ci sarà un programma molto ricco. Sì, infatti alle ore 15 c'è un incontro che si intitola Quale agricoltura nutrirà il pianeta nel futuro. Qui abbiamo un po' deciso di mettere a confronto i due modelli di agricoltura che ci sono oggi nel nostro pianeta, cioè quello dell'agricoltura industriale e tutta la filiera collegata a questa agricoltura che sta devastando la pianeta, e i nostri modelli, quelli che stiamo sperimentando noi, la lotta dei pastori sardi, la lotta dei Semterra, la lotta di chi fa parte di questi movimenti di Transition Town, cioè tutte le lotte che cercano di creare, sviluppare un'alternativa, è un altro modo di pensarci, un altro modo di vivere, è un'altra economia che non è basato sul capitale, è basato su una comunità, insomma, su relazioni e su un'economia solidale e non capitalista. Da domenica parte anche la campagna di tesseramento 2020 per sostenere campi aperti. Che cos'è la tessera del contadino? Allora, la tessera del contadino è una tessera all'associazione Campi Aperti, perché noi siamo un'associazione di produttori e quello che chiamiamo coproduttori, cioè i consumatori. Stiamo cercando sia nuovi soci che hanno voglia di far parte attiva dell'associazione, sia persone nella comunità che riconoscono l'importanza di quello che mangiano. Appunto, noi abbiamo messo sul sito un messaggio: se mangiare è un atto agricolo, siamo tutti contadini, perché pensiamo che sia un atto agricolo, un atto politico, mangiare. Quindi uno potrebbe decidere di sostenere la comunità di Campi Aperti e i mercati contadini in città dandoci 7 euro della tessera contadino, però è un ingresso anche nell'associazione per chi vuole far parte della vita attiva dell'associazione. Abbiamo anche una tessera contadino più che va a sostenere un progetto specifico che abbiamo in corso adesso, che è un patto di mutuo aiuto fra noi e la Mag6, cooperativa di finanziamento mutualistica e solidale di Reggio Emilia.